stava sce padrona crudela, quanta sospira mai fatto iettare, marto stu core come una cannela, bella quando ti senta non menare. Poi piglia l'esperienza della neve, la neve è fredda e si fa maniare. E tu, come si tanta aspre crudela, morte mi vide e non mi vuoi aiutare. Morte mi vide e non mi vuoi aiutare. A diventare un picciotto, una lancella iena venne in acqua, come ne i da chisti palazzuotto, belle femmine mei a chi vuoi, s'affacciano nella dall'ancora. Chi è stu ninna cava venne in acqua, e il rispondo con parola corta, sol lacrime d'amore non ne ha. Lacrime d'amore non ne ha. Sol lacrime d'amore non ne ha. Sol lacrime d'amore non ne ha.